Il punto di Stefano Folli. E così Matteo Renzi ha rotto il piccolo grande tabù della politica italiana, il fatto che non sia opportuno attaccare il capo dello Stato, visto un po' da tutti e con ragione come il custode del sistema, cioè di un equilibrio precario ma pur sempre senza alternative. Ed è precisamente per questa ragione che Renzi lo critica, non tanto per la questione dell'amnistia e delle carceri sovraffollate, quella a tutta l'aria di essere il pretesto. Il vero nodo è che Napolitano, agli occhi di Renzi, è il difensore, il tutore delle larghe intese, ossia dell'attuale maggioranza, l'uomo che vuole la stabilità e sta cercando di allungare la vita sia del governo Letta sia ovviamente della legislatura. Invece Renzi, prossimo segretario del PD, ha bisogno di tempi stretti, elezioni quanto prima, anche perché il personaggio è brillante ma gravemente esposto al rischio di logoramento. Ecco allora gli attacchi al Quirinale. Ma il rischio a cui si espone il sindaco di Firenze non è piccolo. Una politica fatta di slogan, battute e interviste esplosive non è quello che ci si aspetta dal leader del più grande partito italiano, le cui responsabilità dovrebbero essere altrettanto rilevanti.